Sandra Vannucchi, regista del film La Fuga, al cinema da giovedì 7 marzo 2019. Sandra, ben trovata. Grazie. Lo presenti? Sì, La Fuga è la storia di una ragazzina di 10 anni che decide di fare un viaggio da sola, di prendere un treno e andarsene a Roma. E finisce col vivere un'avventura e si ritroverà poi a vivere anche in un campo Rom. Questa è una storia abbastanza personale perché si basa in parte sulla mia infanzia, su fatti realmente accaduti e su cose che io stessa ho fatto. E infatti mia madre soffriva di depressione e proprio come la protagonista all'età di 10 anni io stessa ho preso un treno e sono andata a Roma. Insomma, c'è una differenza tra la vita reale del film, nel senso che io sono stata immediatamente acciuffata dai miei parenti romani una volta che sono arrivata alla stazione Termine di Roma, perché mio padre aveva capito quello che avevo fatto. Quindi, in un certo senso, il film è un po' un modo di aver compiuto questo viaggio che non sono mai riuscita a fare, diciamo. Infatti c'è anche una parte della storia che non si basa su un'esperienza personale e questa è la parte in cui la nostra protagonista incontrerà una ragazzina Rom. Com'è nata l'idea di farne un film? È iniziato con un corto, ho scritto la sceneggiatura come corto, poi da lì l'ho fatta leggere a varie persone, mi hanno detto tutti che sarebbe bellissimo come un lungometraggio, ho iniziato a scrivere un lungometraggio. E io, insomma, sono sempre stata molto interessata ai Rom e anche, insomma, co come venivano trattati, specialmente in Italia. E mentre stavo scrivendo la sceneggiatura, ho iniziato a pensare chi potrebbe incontrare Silvia e mi è venuto quasi naturale, è diventata quasi una cosa organica il fatto che incontrasse questa ragazzina Rom, che comunque in un certo senso come lei rappresenta un po' il diverso, infatti questa è una anche delle tematiche del film, la tematica del diverso, perché Silvia rappresenta il diverso nel senso che fa parte di una famiglia in cui comunque c'è una malattia in corso, che non è come tutte le altre famiglie, ed Emina fa parte di una comunità che è spesso emarginata e considerata diversa. Come ti sei rapportata alla comunità Rom? Devo dire molto bene, io e il co-sceneggiatore Michael King avevamo fatto molta ricerca in tanti campi Rom. Io fin dall'inizio sapevo che avrei voluto girare in un vero campo Rom, quindi una volta trovata la ragazzina Rom dentro al campo nel quale avevo deciso di filmare, poi insomma è andato tutto a posto da sé, diciamo, e loro sono stati molto ospitali, devo dire che ci ha dato un aiuto la comunità di Sant'Egidio, perché grazie a loro siamo, insomma, ci hanno introdotto nei vari campi che stavamo considerando e poi dopodiché, insomma, ci siamo trovati molto bene, eravamo un film non con grandissime possibilità, è un film abbastanza indipendente, low budget, però abbiamo assunto la maggior parte delle persone, hanno lavorato insieme a noi con grande professionalità e devo dire che sia noi che loro ci siamo affezionati l'un l'altro e quando insomma, è arrivato il momento di salutarsi, non nego che io insomma, avessi anche una lacrimuccia agli occhi e non ero la sola, ecco. Quindi ci siamo trovati molto bene. E come ti sei trovata con la tua protagonista? Anche con lei mi sono trovata molto bene, abbiamo visto centinaia di ragazzine prima di trovarla, insomma lei era molto dedita alla sceneggiatura, aveva fatto teatro fino all'età di 4 anni, quindi insomma mi sono trovata molto bene, ovviamente si tratta di un'attrice giovane, però era così volenterosa, così determinata che insomma alla fine ha fatto un ottimo lavoro, abbiamo letto insieme la sceneggiatura molte volte, abbiamo discusso magari le parti che erano un pochino più difficili perché diverse dalla sua vita reale e abbiamo fatto spesso delle prove con diverse improvvisazioni prima del film anche con Emina, la ragazzina Rom. Che tipo di distribuzione sarà? In quante sale? Ora esattamente non so rispondere, bisogna sentire lo scrittoio che è il nostro distributore, però appunto è iniziato adesso il 1º marzo a Milano, poi sarà a Roma il 9, quindi piano piano. Accompagnerai le proiezioni con l'incontro con il pubblico? Sì, cercherò il più possibile di essere presente. C'è uno spazio web dedicato al film? Sì, lo scrittoio sul loro sito, la loro pagina Facebook. E allora ricordiamo l'uscita in sala del film La Fuga al cinema da giovedì 7 marzo 2019. Un saluto e un ringraziamento alla regista Sandra Vannucchi. Un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Crepi il lupo e grazie mille.